Buongiorno. Prima di tutto, facciamo l'appello. Gigi D'Agostino. Presente. Ok, ci siamo tutti. Che siamo qui a snocciolare, eh? di Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male. Scrivermi o mandare delle dediche o che ne so, il numero per gli SMS è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Del foglietto. Questo è il numeretto. Seguiamo sto cammino. Yeah.

questo è il cammino di Gigi D'Agostino e oggi va un po' dappertutto. Cioè, a lavorare tutti, forza. No, vabbè. We'll be right back.

tra di noi e cammino.